Indy Radio è un programma di notizie indipendenti a cura di Indy Media Calabria. In questo programma troverai notizie e aggiornamenti sui movimenti e sulle lotte sociali ogni settimana qui su transizionedifase.org. Le notizie sono estratte da internet, principalmente dai siti del network Indy Media. Il programma è focalizzato principalmente sulla Calabria, ma trovano spazio anche aggiornamenti di carattere nazionale e internazionale. Visitaci su calabriaindymedia.org e buon ascolto! Diamo lettura del comunicato pubblicato su Calabria Indy Media da parte del comitato Prendo Casa di Cosenza. Il titolo è Contro il degrado e la speculazione nel centro storico, riappropriamoci dei nostri quartieri. Dopo l'occupazione di Palazzo Francini nel quartiere della Massa, ben 8 nuclei familiari del comitato Prendo Casa occupano un altro stabile comunale, Palazzo Cosentini, anch'esso assegnato all'Unical, come ben altri 6 palazzi nel centro storico. È destinato all'abbandono e alla strumentalizzazione dopo essere stato ristrutturato con fondi pubblici. Assegnazioni che continuano a reggersi sul vecchio disegno, ormai fallito, di portare una facoltà universitaria a Cosenza. Basti pensare alla capacità effettiva di Palazzo Bondini, che potrebbe tranquillamente soddisfare il bisogno di 13-14 famiglie, mentre attualmente ospita solo una decina di ricercatori. 8 famiglie accomunate dalla medesima condizione di precarietà abitativa, conseguenza diretta della precarietà economica, che vivono in case pericolanti, in emergenza abitativa, con sfratti esecutivi o in pochi metri quadrati fatiscenti da dover condividere con altri nuclei familiari. Disoccupati, parcheggiatori abusivi, lavoratori di cooperative, venditori ambulanti, lavoratori da 600 euro al mese, quando va bene. I nuclei del comitato Prendo Casa non possono più sottostare a questo come a tanti altri ricatti, non possono più sottostare alle logiche clientelari messe in atto da politicanti ed enti fantasmi come l'ATERP. A fronte dell'espropriazione dei diritti perpetrata da decenni di politiche clientelari, Prendo Casa ha costituito un percorso reale di riappropriazione dal basso dei bisogni negati. Prendo Casa Cosenza resiste e rioccupa. Solo la lotta paga, solo la riappropriazione diretta di ciò che per troppo tempo ci è stato negato può ristabilire giustizia sociale e permettere al corpo sociale precario di affrontare la crisi che gli speculatori hanno causato e che vorrebbero farci pagare. Effettivamente è stata occupata questa casa nel centro storico di Cosenza, una casa molto grande, spaziosa, certamente ancora fatiscente, molto sporca, ma che sicuramente il comitato Prendo Casa riuscirà a ripristinare, così almeno ci auguriamo. E dal sito di Indy Media Italia, dal sito aggregatore, leggiamo l'articolo centrale dedicato questa volta agli arresti avvenuti a Firenze il 4 maggio scorso. il titolo dell'articolo è infatti sugli arresti del 4 maggio a Firenze. L'indagine per associazione a delinquere a carico di 78 compagni fiorentini si conclude in grande stile all'alba del 4 maggio, quando va in scena una maxi operazione di polizia, Digos e dei servizi segreti interni. Il bilancio è di 5 compagni sottoposti agli arresti domiciliari, 17 obblighi di firma, decine di perquisizioni in abitazioni private e perquisizioni dello spazio liberato, 400 colpi, intorno al quale ruota l'intera inchiesta. I fatti specifici contestati sono per lo più relativi agli episodi di conflitto che hanno scaldato l'ultimo autunno, ma non solo. Manifestazioni non autorizzate, occupazioni, danneggiamenti a banche, blocchi stradali e ferroviari, tafferugli in università per impedire al ministro Santanchè di svolgere una conferenza razzista, presidi di solidarietà al Tribunale dei Minori durante alcuni processi ai compagni, un insieme di piccoli episodi dalla scarsa rilevanza penale che, inseriti nell'ambito della presunta associazione a delinquere 400 colpi, hanno permesso ben 22 provvedimenti di custodia cautelare. Luca, Pietro, Massi, Daniele e Vittorio sono dunque ai domiciliari. Arresti preventivi, o meglio, controinsurrezione preventiva su larga scala, che non si è limitata a colpire ed arrestare i compagni del 400 colpi, ma anche coloro che con essi hanno condiviso percorsi di lotta e conflitto, dentro e fuori le università. È così che si cerca di attaccare non solo le lotte reali, ma anche i legami che esse sono state capaci di costruire in città. A dare prova della malafede dei media, che hanno definito gli arrestati appartenenti a un piccolo gruppo isolato, così smantellato, la solidarietà che si è già subito riversata nelle strade di Firenze e che rimbalza in rete. Libertà per Pietro, Luca, Massi, Daniele e Vittorio. E dalle pagine di Indie Media Lombardia leggiamo dello sgombero del FOA Boccaccio con un articolo centrale datato 2 maggio 2011. Spazi sociali sempre più negati su tutto il territorio nazionale. Diamo lettura della notizia. Stamattina un ingente dispiegamento di forze dell'ordine ha sgomberato la FOA Boccaccio 003 di via Aspromonte 12. È il settimo sgombero in quasi 10 anni di lotta sul territorio monzese per uno spazio sociale. 6 compagni occupanti sono stati identificati ed in seguito rilasciati. In queste prime 4 settimane di riaperture, la SOA Boccaccio è riuscita a divenire un laboratorio per le tante lotte territoriali, da quelle studentesche a quelle contro la privatizzazione della Villa Reale, passando dalle istanze dei precari e delle precarie. I compagni del FOA Boccaccio ribadiscono che cercheranno tutti gli strumenti possibili per dare continuità a tutto questo. Leggiamo ora un aggiornamento che parla dell'occupazione di un nuovo spazio avvenuto il 3 maggio scorso. Quando si collezionano 7 sgomberi in poco meno di 10 anni, non si può rimanere certamente sorpresi. Politicamente l'azione del commissario di Monza è gravissima, laddove sottolinea nuovamente come in questa città la gestione del problema della mancanza di spazi per attività sociali, politiche e culturali autogestite venga affidata esclusivamente alla mano repressiva delle forze dell'ordine. Però, ripetiamo, tutto ciò non ci sorprende, conoscendo i personaggi che ci governano e che la popolazione giovanile di Monza ha imparato a odiare. E allora, se abbiamo detto e scritto che oggi a Monza la mobilitazione per uno spazio sociale è irreversibile, significa che si mette anche in conto che l'insolvenza delle istituzioni e le volontà politiche avverse possano mettere in atto il triste meccanismo che ha portato stamattina, martedì 3 maggio, allo sgombero dello stabile di via Aspromonte 12. Significa però soprattutto affermare che ormai non ci fermiamo più neanche un giorno per ragionare sul da farsi. La situazione è chiara e la risposta che diamo lo è altrettanto. Una nuova occupazione dove far confluire tutte le energie della SOA Boccaccio sta catalizzando in città attorno al proprio progetto. Il 9 aprile eravamo in 200, ecco che stasera, all'atto della nuova occupazione, siamo molti di più e questo è ciò che conta per i nostri bilanci. Maggio 2011, irreversibilità del concetto di spazio. Quando si collezionano 7 sgomberi in poco meno di 10 anni, non si può rimanere certamente sorpresi. Politicamente l'azione del commissariato di Monza è gravissima, laddove sottolinea nuovamente come in questa città la gestione del problema della mancanza di spazi per attività sociali, politiche e culturali autogestite venga affidata esclusivamente alla mano repressiva delle forze dell'ordine. Però, ripetiamo, tutto ciò non ci sorprende, conoscendo i personaggi che ci governano e che la popolazione giovanile di Monza ha imparato a odiare. E allora, se abbiamo detto e scritto che oggi a Monza la mobilitazione per uno spazio sociale è irreversibile, significa che si mette anche in conto che l'insolvenza delle istituzioni e la volontà politica avversa possano mettere in atto il triste meccanismo che ha portato stamattina, martedì 3 maggio, allo sgombero dello stabile di via Aspromonte 12. Significa però soprattutto affermare che ormai non ci fermiamo più neanche un giorno per ragionare sul da farsi. La situazione è chiara e la risposta che diamo lo è altrettanto. Una nuova occupazione dove far confluire tutte le energie che la SOA Boccaccio sta catalizzando in città attorno al proprio progetto. Il 9 aprile eravamo in 200, ecco che stasera, all'atto della nuova occupazione, siamo molti di più e questo è ciò che conta nei nostri bilanci. Sentiamo forte la solidarietà e la vicinanza che tante realtà di Monza, Brianza, Milano e Interland hanno dimostrato nel corso di queste concitate settimane nei nostri confronti. Vogliamo restare in questo quartiere in cui abbiamo recepito un'accoglienza che ci ha colpito e che intendiamo ricambiare in termini di servizi aperti e gratuiti per chi abita nei dintorni del nostro spazio. Anche quest'ultimo, che abbiamo occupato e dismesso da anni e anni, è uno dei tanti abbandoni qui in zona, anch'esso adatto ad ospitare tutto ciò che abbiamo in mente per il futuro della nostra esperienza. Non spendiamo troppe altre parole su quanto accaduto oggi, preferiamo che siano i fatti che quotidianamente si concretizzano a partire dal nostro agire a dar forma alla determinazione che sentiamo in corpo. Le iniziative in calendario riprendono senza sosta alcuna. Vi invitiamo tutti all'assemblea pubblica di presentazione della nuova sede del FOA Boccaccio, mercoledì 4 maggio alle ore 21:30. Leggiamo di una grave aggressione neofascista avvenuta all'Università Federico II, con una notizia, un articolo centrale pubblicato il 29 aprile scorso. E ricordiamo che mercoledì 12 maggio ore 16:30 si svolgerà nella città partenopea un corteo antifascista. Ma leggiamo la cronaca degli avvenimenti. Il 29 mattina di aprile, lo ricordiamo, appena arrivati alla facoltà di lettere, gli studenti si sono resi conto della presenza di scritte minacciose quali "Antifa, vi buchiamo", corredate da svastiche e croci celtiche. Mentre gli studenti e le studentesse, armati di rullo e vernice, ripulivano le mura del chiostro universitario, sono stati avvicinati, con fare minaccioso e premeditato, da tre individui in sella dei motocicli. Da ciò ne è scaturito uno scontro verbale fisico che ha portato all'accoltellamento di tre giovani dei collettivi universitari. Uno degli aggressori si è rivelato essere tale Tarantino, candidato con una lista collegata alla lettiera PDL. Tarantino era già balzato agli onori delle cronache per aver ostentato qualche giorno fa la sua stima nei confronti di Hitler su un social network. I giovani feriti, rispettivamente conferite da armi da taglio a gambe e mani e testa, sono stati prima medicati in ospedale e successivamente inspiegabilmente tradotti in questura, mentre lettieri e altri politici vari girovagavano per la città alla ricerca di consensi. È stato convocato un presidio di fronte alla questura per denunciare l'aggressione ed esprimere solidarietà agli aggrediti. Alla liberazione dei fermati, il presidio si è mosso in corteo per il centro storico, zona universitaria. Arrivato il corteo a Piazza Dante, la polizia, forse preoccupata dalla possibilità che i manifestanti danneggiassero i materiali elettorali e la sede del PDL, ha caricato il corteo lanciando una decina di lacrimogeni, creando il panico tra i presenti e i passanti, spaccando il corteo che si è sciolto per poi ricompattarsi in Piazza del Gesù. Indie Radio vi saluta e vi aspetta alla prossima puntata.